La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino vi saluta in questo lunedì 24 di marzo, sono le 16.36, 10 secondi, siamo in diretta dagli studi di Radio 24 qua di Milano. Vado subito al tema del giorno per farvi esaminare l'ipotesi se chiamarci oppure no all'800240024, numero per i messaggi, lo sapete, lo so che siete a maggioranza fedelissimi ascoltatori, comunque il 349-238-6666. Oggi parliamo di uno dei classici temi italiani, cioè la contrapposizione, la divisione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. E quindi apparteniate all'una o all'altra dei sottoinsiemi del mondo del lavoro italiano, mi interessa sapere come la pensiate sul punto che accettiamo troppo di farci dividere dallo Stato, ci contrapponiamo l'uno contro l'altro e non capiamo che in realtà in questo facciamo il male di tutti noi. E però lo facciamo, tocchiamo questo argomento, toccando un punto ancora più delicato, perché oggi c'è una testimonianza, alla quale io tengo molto visti i temi di cui si tratta, di un lavoratore, anzi di una lavoratrice autonoma che scopre ammalandosi di avere sì una brutta malattia, ma di non avere gli stessi diritti che hanno gli altri. E questa trasmissione però non vuole improntarsi né al piagnonismo, né alle querimonie, né alle lamentele. Il problema è una riflessione collettiva sul fatto se sia giusto questa disparità, tenuto conto che gli autonomi scommettono su se stessi, come molte volte, toccando il tema, molti di voi telefonano dicendo sì, ma loro si possono detrarre ciò che noi non possiamo come dipendenti dalle tasse, loro possono detrarsi, noi dovrei dire, sono anch'io un autonomo, noi possiamo detrarci i costi della produzione, non è che possiamo detrarci quello che altro che non vi possiate detrarre voi. Detto tutto questo, pensiamoci, visto che il governo sta a sua volta immaginando, uno degli annunci di Renzi è relativo al fatto di aumentare la detrazione IRPEF per le fasce basse dei redditi, sono d'accordo, ma naturalmente solo per dipendenti assimilati. Gli assimilati non sono gli autonomi, sono solo, vedremo come definiti, i co-co-co, non sono neanche le partite IVA monocommittenti, e io su questo credo che sia sbagliato, perché per l'ennesima volta accetteremmo una asimmetria che secondo me è profondamente ingiusta. Faccio un ultimo esempio prima di presentarvi la nostra ospite. Stamattina ho commentato su Twitter la notizia che veniva dal comune di Roma, dove il sindaco Ignazio Marino, dopo il Salva Roma, chiede 4.000 prepensionamenti per i dipendenti del comune di Roma municipalizzate con tetti pre-riforma Fornero. Voi capite che anche queste sono asimmetrie intollerabili. In questo caso stiamo parlando tra tutti i lavoratori del settore privato, siano autonomi o siano dipendenti, e quelli pubblici. Ecco, un mondo del lavoro spezzettato a seconda del peso relativo della rappresentanza e del, tra virgolette, ricatto politico dei voti, in mondo del lavoro dipendente pubblico e privato, spaccati con diversi diritti e diverse tutele. Non mi dite che c'è la mobilità anche per i dipendenti pubblici, perché lo so, ve lo ripeto da anni, il problema è che nel pubblico non viene applicata, mentre per i privati è la regola. È un mondo poi nel quale tutti i dipendenti a propria volta hanno diritti diversi rispetto agli autonomi, secondo me è un mondo, generalmente lo dico, inaccettabile, e vi prego di credere, non perché sono un autonomo anch'io. Allora, su questo tema, scoprirsi di ammalarsi ma non di avere gli stessi diritti, e con noi, io molto la ringrazio, Daniela Fregosi, che è una consulente d'impresa, è grossetana, una lavoratrice autonoma, e grazie di essere con noi oggi pomeriggio. Buonasera a tutti i lavoratori, indiscriminatamente. Esattamente. Sì. Allora, lei faceva la consulente d'impresa, grossetto, eccetera, e poi si becca il cancro. Sì, io opero in tutta Italia, quindi la complicazione è proprio questa, e per i consulenti che viaggiano molto, la malattia, una malattia come il cancro, è decisamente poco conciliabile, ecco, e per cui al momento in cui io scopro il cancro, quindi quest'estate, inizia un delirio, non tanto e non solo di tipo medico, ma proprio di conciliazione lavoro-malattia. Sì. Non solo lavoro-malattia, ma come stava accennando lei prima, il problema è che per un autonomo, come dire, la macchina delle tasse non si ferma, non si ferma, va avanti, nonostante uno sia ammalato, addirittura si è comunque soggetti agli studi di settore, ai famosi studi di settore, per cui tranquillamente io dovessi avere uno studio di settore per il 2013, sono in difetto e devo dimostrare di non aver guadagnato in nero, questi sono un po' i paradossi. A me premeva molto ribadire esattamente quello che lei ha detto e mi è piaciuto tantissimo, cioè che l'obiettivo non è innescare una guerra tra poveri, cioè fare a gara a chi in caso per esempio di malattia stia peggio tra lavoratore autonomo o lavoratore dipendente, perché non è proprio nemmeno mai stato il mio obiettivo con la battaglia che sto facendo, ma è attenersi al livello di tassazione, cioè a parità di tasse che paghiamo tutti, anche noi autonomi, il problema è ciò che abbiamo in cambio. Esatto. Che è pochissimo, tanto è vero che io a dicembre del 2013, in maniera totalmente pubblica, quindi non nascondendomi, ma proprio dicendolo e denunciandolo, sono entrata nella mia disubbidienza fiscale, cioè ho deciso di non pagare l'acconto INPS, in quanto quando mi è arrivato, come dire, ho detto assolutamente no, cioè rispetto ai diritti che io ho come paziente oncologica, l'INPS mi viene anche a chiedere l'acconto rispetto alle tasse di un anno che ancora non è nemmeno finito, cioè lì sono proprio, la mia rabbia che già era molta è completamente esplosa, e invece di fare quello che purtroppo molti lavoratori autonomi fanno, cioè di non riuscire a pagare ma nascondendosi, io ho scelto di non nascondermi e di pubblicizzarla questa cosa, anzi ora appena mi arriverà la lettera dell'INPS io scriverò una lettera formale e cercherò di pubblicizzare anche quella sui motivi per cui ho deciso di non pagare. Io addirittura ho fatto il calcolo per dare un peso alle cose con dei numeri, sì. Io ho fatto il calcolo di quello che io ho dato all'INPS dal 1 gennaio del 97, quando l'INPS per la gestione separata diciamo è diventata obbligatoria, sì. E quello che è venuto fuori è una cifra. Ricordo a tutti supera... quelli. Aspetti, perché la gestione separata non tutti sono tenuti a ricordare da quello che sono ascolti. Quelli che diciamo non hanno la cassa, non appartengono a un ordine professionale. Allora, la gestione separata negli anni ha visto l'aliquota salire, siamo al 27,7. Da due anni il tentativo di farla salire al 33% è già deliberato e viene prorogato. Sì. Si fa presente a chi è in ascolto, lavoratori, dipendenti e così via, che questa è la botta definitiva per innalzare significativamente di più la pressione fiscale ai lavoratori autonomi di gestione separata rispetto a quello che hanno come diritto, rispetto a quello che avete voi, quindi pagare più tasse per avere meno, non avere la copertura che tutti i lavoratori dipendenti hanno, per esempio quando vanno regolarmente in malattia. L'autonomo in questo caso paga di più, ma in malattia succede quello che adesso ci spiega Daniela Fregoso. Delle cifre rispetto a quello che ha già detto molto chiaramente lei, cioè io dal 97 ho dato all'INPS più di 75.000 euro, solo di INPS, ovviamente poi ci sono le altre tasse, in cambio come gestione separata io che ho un tumore da gestire dall'INPS ho un massimo di 61 giorni di malattia in un intero anno in cui ho percepito 13 euro al giorno. Questo è ciò che io ho avuto in cambio. Capirete bene che non essendo un'influenza, ma essendo un tumore, con 60 giorni tu non ci fai, in un anno praticamente non ci fai nulla. Poi a 13 euro al giorno, se io, come dire, avessi dovuto sopravvivere in tutti questi mesi, ormai è quasi un anno, con questo tipo di diritto in cambio, cioè, sinceramente è ridicolo. A quel punto direi all'INPS, come si fa con le assicurazioni private, no? Se tu hai un'assicurazione vita, pensione privata, tu per gravi motivi, come per esempio un cancro, puoi dire all'assicurazione: guardate, ridatemi tutto indietro che c'ho un tumore, quindi faccio il riscatto anticipato. Sì. Ecco, a me piacerebbe fare il riscatto anticipato all'INPS di tutti i soldi che io ho lasciato lì. La fermo anche qua, pensateci bene, lavoratori dipendenti in ascolto, questa cosa evocata da Daniela Fregosi, il riscatto anticipato per straordinarie contingenze di vita, è ciò a cui il governo sta pensando in alternativa alla detrazione IRPEF, che ha particolari problemi, ce ne occuperemo la prossima settimana, questa settimana ma più avanti, con il rilascio in busta paga del TFR, che anche in questo caso è dei lavoratori, ma potrebbe essere rilasciato in anticipo per sostenere i consumi. Naturalmente però questo sempre ai lavoratori dipendenti, perché come sentite agli autonomi è impossibile. Adesso abbiamo 60 secondi di informazione stradale e poi torniamo con la testimonianza di Daniela Fregosi su autonomi, avere il cancro ma hanno gli stessi diritti. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta a 16:47, 17 secondi, molti sms me li aspettavo, spaccati, perché inutile dire, leggo alcuni, per esempio questo è Alessandro da Firenze, dimentichi però che le partite IVA hanno il diritto di evadere, che i dipendenti non hanno, anche questa è una simmetria altrettanto inaccettabile. Lavoratrice autonoma nella vita e sul lavoro, lo Stato italiano è il mio nemico, questa invece è Maria Luisa da Ascoli. Sai, questa Silvia ci dice invece, Oscar, sai durante le discussioni cosa mi rispondono sulle sperequazioni di cui state parlando, nel suo caso è la maternità, nel caso di Silvia, gli autonomi evadono e quindi io non riesco mai a fare una discussione seria, dice Silvia. Invece, parere opposto a Angelo, caro Giannino, andando oltre la retorica, quando gli autonomi, magari in tempi diversi, ma per alcuni settori accade che attualmente accumulino ancora profitti, non li dividono con i lavoratori dipendenti, la cui retribuzione, essendo più anticiclica, resta quindi invariata in periodi di grasso o di magra, per cui cerchiamo di essere obiettivi. Angelo, però questo diciamo, i proventi del lavoro che l'autonomo si procaccia non ha a che vedere con la simmetria dei diritti rispetto a ciò che si versa, perché sono due questioni molto diverse, come è ovvio, nel senso che la scommessa su se stesso, il rischio di impresa che si prende l'autonomo ovviamente è ciò che lo distingue dal lavoro dipendente, che ha ovviamente mansionario, qualifiche fisse, poi alla fine diventa frustrante, me ne rendo perfettamente conto, però la diversità di retribuzione per ciò che uno si procaccia con i clienti non ha a che vedere col fatto che a parità dei pagamenti ciò a cui si ha diritto in cambio è diverso e secondo me inaccettabilmente diverso. Allora, ho interrotto Daniela che diceva si è auto pubblicamente segnalata per la sua disobbedienza fiscale. Io credo che coloro che lo fanno pubblicamente, cioè si espongono poi a quello che avviene per far riflettere la gente, siano molto meritevoli di plauso, perché qui non stiamo parlando di evasione, stiamo parlando di sollevare un tema mettendosi a rischio sulle sanzioni perché tutti possano riflettere. Ecco, Daniela, vogliamo dire anche su cui c'è un sito, un blog su cui lei... Sì, ecco, una cosa che ricollego tra l'altro alla differenza autonomi dipendenti. Nel mio blog Afrodite K, che ho aperto a novembre 2013, ho poi lanciato un mesetto fa, poco più di un mese fa, una petizione proprio sul problema della malattia degli autonomi, che è stata tra l'altro appoggiata da ACTA, che è l'associazione consulenti del terziario avanzato. Ora, la cosa particolare è che questa petizione in poco più di un mese ha superato 35.000 firme, che sono veramente tante. E alcune di queste firme, udite udite, sono di lavoratori dipendenti che motivano il fatto di firmare con la difesa dei diritti umani, con una, per esempio, ricordo, ha scritto questa cosa bellissima: io firmo anche se non sono una lavoratrice autonoma perché potrei diventarlo. Che è fantastico. No, ma io sono convinto che in realtà poi la solidarietà, la convergenza, la consapevolezza che non conviene a nessuno farci dividere come avviene regolarmente, certo. Per esempio con la pubblicazione annuale delle famose medie per i soggetti a studi di settore, che dimenticano di dire che la media IRPEF ignora a quel punto ciò che si può portare nel reddito d'impresa quando siano dipendenti e lo splitting familiare, e quindi questo poi fa scattare i lavoratori dipendenti che dice: com'è possibile che il commerciante abbia un reddito così inferiore al mio? Però lo Stato, nel darvi quei numeri, regolarmente fa delle estrapolazioni che dimenticano poi tutto il resto, che si paga, ma sta nel reddito d'impresa e sta nello splitting familiare. Ecco, diciamo che lo Stato è abbastanza abile, secondo me, a dividerci, però basta, dopo un po' di tempo, in questi anni di crisi, vedendo come siamo ridotti tutti, cercare di superare la divisione. Sentiamo rapidissimamente alcuni dei nostri ascoltatori. Sentiamo Rachele che ci chiama da Milano. Prego, Rachele. Buongiorno, io sono una tassista. Sì. Tanto per rimanere in tema di autonomi, non si considera che oltre tutto quello che non abbiamo come diritto di un dipendente, io sono andata a lavorare con un piede rotto e perché l'assicurazione non mi pagava, perché dovevo lavorare, sono a fine mese, non potevo onorare gli impegni, ma questo interessa poco allo Stato. Il fatto che ci si stiano suicidando tanti autonomi, è palese che tutti questi favolosi guadagni non ci sono più. Già. Rachele, io purtroppo vedo tra tanti che sono nelle nostre condizioni che è così, però giustamente il lavoratore dipendente è libero di non crederci. Alfredo, sentiamo Alfredo che ci chiama dalla provincia di Belluno, prego Alfredo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Niente, io vorrei solo che si desse delle informazioni corrette. Premesso che va tutta la mia solidarietà per la signora che ha quei problemi, sì. Il vero problema è che su 100 euro lordi di retribuzione, un lavoratore dipendente nell'industria, tra lui e l'azienda, paga una contribuzione del 41%, sì. Mentre che un lavoratore in gestione separata ne paga il 27 qualcosa. Allora, questo 27 qualcosa va semplicemente a creare il montante contributivo pensionistico. Sì. Mentre che ad esempio non c'è una contribuzione adeguata per la tutela INPS per quel che riguarda le malattie, che viene pagata con ulteriori aggiunti di aggravi, che poi è famoso cuneo fiscale. Sì. Se vogliamo dare un'informazione corretta, che tutti dovrebbero pagare la stessa aliquota per avere le stesse prestazioni. Se le aliquote sono diverse, le contribuzioni diverse, è evidente che spesso e volentieri poi anche purtroppo i diritti di cui si ha dovrebbero essere universali sono diversificati. Niente, volevo intervenire su questo perché si rischia di dare un'informazione fuorviante. Alfredo, l'informazione fuorviante è sempre qualcosa che mi vede molto attento. Allora, io invito tutti coloro che sono in ascolto ad andare sul sito www.actainrete.it, actainrete.it, troverete una tabella comparata tra gli oneri a carico dell'impresa e a carico del dipendente, del lavoro dipendente, e gli oneri a carico solo dell'autonomo, in caso dell'autonomo, per un reddito lordo di circa 32.500 euro l'anno. Il reddito lordo, che significa il costo aziendale per l'impresa, quindi stiamo parlando di un reddito netto molto più basso per il lavoro dipendente, e troverete voce per voce la prova provata di come per il lavoratore autonomo la parte di tassazione e contribuzione a proprio carico è più elevata oggi in Italia di quella a carico del solo lavoratore dipendente, esclusa la parte dell'impresa, è più elevata. Quindi noi stiamo parlando una cosa, cifre alla mano, www.actainrete.it. Se non vi convince quella tabella, scrivetemi, ne parleremo anche con sindacalisti, rappresentanti del lavoro dipendente. Non, è troppo facile dire che queste sono cifre scorrette. Beh, è ovvio che parlando in radio non posso mostrarla la tabella, però lì c'è un conto che tutti possono guardare con grande attenzione. Sentiamo Andrea da Parma. Andrea, prego. Buonasera, dottor Giannino. Buonasera. Io sono un autonomo e lavoro nel settore dentale e la mia compagna invece è un dipendente pubblico, quindi noi facciamo sempre dei confronti alla fine dell'anno, soprattutto negli ultimi 5 anni da quando è cominciata. E come vanno i confronti? I confronti che lei ha mantenuto il suo reddito di allora, anzi l'ha leggermente aumentato, mentre invece il mio è calato del 40%. Lo so, naturalmente in questo io devo dirle, molti lo hanno perso, perché ovviamente ci sono anche i dipendenti che sono disoccupati, e come, perché siamo in un paese in cui tra i precedenti e quelli aggiunti dalla crisi siamo arrivati ai 3 milioni di disoccupati. Allora, Daniela Fragosi, rapidissimamente, come possiamo sul blog, seguitela tutti sul blog, ridica il nome del blog, Afrodite K. Il blog si chiama Afrodite K, dal personaggio di Afrodite che era in Mazinga Z, aveva le tette razzo, quindi per drammatizzare un po' la mia situazione. Va bene, allora noi invitiamo tutti a seguire Radio 24 e andare su Afrodite K.